Il termine ravvedimento si trova decine e decine di volte nella parola di Dio, il libro che l'Eterno Dio ha fatto scrivere per comunicare la sua volontà. Non comprendere il significato di questa parola significa limitare la comprensione del messaggio di Dio e trovarsi nell'impossibilità di compiere la sua volontà. In effetti, il messaggio dell'Eterno, nell'Antico Testamento, il messaggio di Cristo e degli Apostoli, comprendeva la necessità di ravvedersi per essere salvati. Ezechiele 18:35. Perciò giudicherò ciascuno di voi secondo le sue vie, o casa di Israele, dice il Signore, l'Eterno. Ravvedetevi e abbandonate tutte le vostre trasgressioni, così l'iniquità non vi sarà più causa di rovina. Matteo 4:17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Atti 2:38. Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Se il tema del ravvedimento era il primo messaggio di Gesù e dei primi cristiani, se il ravvedimento è la volontà di Dio, se il ravvedimento è predicato da 2000 anni, allora anche per noi oggi non vi è dunque messaggio più importante. Non va scoraggiato certamente lo studio della parola di Dio. Non bisogna disprezzare argomenti attinenti alla vita cristiana, al matrimonio e alla comunione fraterna, ma dimenticando di parlare di ravvedimento non poniamo la pietra principale sulla quale vengono costruite tante altre verità. Che cosa è il ravvedimento? Cosa significa ravvedersi? Prima di rispondere a queste domande, è bene valutare che cosa non sia il ravvedimento per dare la possibilità di verificare se ognuno di noi un giorno si è ravveduto o deve ancora ravvedersi. E perché questo appello non passi inosservato, dobbiamo ricordare che non è sufficiente compiere grandi opere per Dio per soddisfare la sua volontà. Non è sufficiente professare il nome di Cristo per essere salvati, perché Gesù ha detto espressamente che molti saranno cacciati nelle pene eterne perché non si sono ravveduti. Se la volontà di Dio è prima di tutto il nostro ravvedimento, è evidente che ogni altra opera ai suoi occhi non ha valore. Ho letto la testimonianza di uomini che pregavano Dio, predicavano il messaggio del Vangelo, facevano opere pietose, digiunavano, eppure non si erano ravveduti. Dunque non sottovalutiamo la premessa in merito a che cosa non sia il ravvedimento. Il ravvedimento non è necessariamente temere Dio quando si è in pericolo. Il nostro Dio può usare il pericolo o la sofferenza per portare le persone al ravvedimento, ma spesso quando ci si trova nel dolore o nel pericolo ci si volge verso Dio per un istinto che Lui ci ha dato. Ho ancora presente la richiesta di un giovane che non si era mai interessato di religione, ma che, alla morte di un suo caro, mi ha chiamato da parte e ha voluto che io pregassi per lui, esprimendomi tra l'altro il suo sentimento religioso. Ho pregato per lui perché la preghiera è sempre opportuna, ma non mi sono lasciato illudere che ciò fosse il risultato di un suo ravvedimento. In effetti, dopo il funerale, tornò alla vita di prima senza più mostrare nessun segno religioso. Il ravvedimento non è una sensazione. Troppe persone si aspettano di sentire qualcosa da Dio, come se il rapporto con Cristo fosse un rapporto amoroso. Abituati come siamo a vivere la nostra esistenza basandoci su delle sensazioni, noi pensiamo che la comunione con Dio sia imperniata di emotività amorose. Così, vi sono persone che spesso cercano incontri religiosi dove sentire delle emozioni, finendo poi per confondersi e scambiare le decisioni prese in quel momento per il ravvedimento. Il ravvedimento non è neppure provare del rimorso. Provare del rimorso del pentimento fa parte della nostra natura composta di una coscienza omorale, ma questo non è ancora ravvedimento. Il discepolo di Gesù, Giuda, provò del rimorso, si pentì per aver tradito Gesù, ma non si era ancora ravveduto, perché poco dopo andò ad impiccarsi. Il ravvedimento non è avere la convinzione di peccato. Se il rimorso è il risultato della nostra coscienza che ci riprende, la convinzione di peccato è il risultato dell'opera dello Spirito Santo. Ma anche in questa situazione non si può parlare di ravvedimento, perché Leggiamo nella parola di Dio che molti furono convinti di peccato per lo Spirito Santo, ma non accettarono la sua testimonianza. Anzi, chi rifiuta la testimonianza dello Spirito si rende colpevole di un peccato eterno. Il ravvedimento non è neppure necessariamente mettersi a pregare, leggere la Bibbia. Alcune persone, quando hanno sentito l'appello di ravvedersi, hanno imitato i cristiani nel leggere la parola di Dio e pregare, ma questo atteggiamento era il desiderio di voler essere cristiani senza però passare per l'esperienza del ravvedimento. Il ravvedimento non è neppure migliorare la propria vita e togliere alcuni difetti o peccati. Vi sono persone che pensano di essersi ravveduti solo perché questa è certamente una cosa buona e da incoraggiare, ma non è ancora il ravvedimento. Che cosa è allora il ravvedimento? Cosa significa allora ravvedersi? Il vocabolario definisce il ravvedimento, l'atto di ravvedersi, e il ravvedersi lo definisce come il riconoscere i propri errori morali o religiosi e correggersi. Forse la definizione più appropriata consiste nel definire il ravvedimento come l'atto nel quale una persona rivede se stessa. Infatti, l'etimologia della parola ravvedersi è vedersi di nuovo, rivedere se stesso. Questa definizione include ogni altro aspetto. Difatti, ognuno di noi ha una sua opinione su Dio, sugli altri e su se stesso. E questo è normale. Si pensa che Dio sia buono e che alla fine perdoni tutti. Si pensa che in fondo la società non sia così malvagia. Si è convinti di essere dei peccatori, ma non meritevoli dell'inferno. In genere queste sono le opinioni che abbiamo noi tutti. Posso testimoniarlo personalmente perché anch'io a suo tempo la pensavo così. Poi viene il giorno in cui ci confrontiamo con il messaggio del Vangelo. Veniamo a conoscenza che Dio ha preparato l'inferno per coloro che non lo amano, che la società è condotta dalle potenze malvagie delle tenebre, che noi siamo dei peccatori perduti e degni solo di andare all'inferno. Veniamo a sapere che il peccato non è una debolezza dell'uomo, ma che esso abita nel cuore di ogni persona e che ci mantiene separati da Dio. Inoltre, sempre mediante il messaggio del Vangelo, sappiamo che ogni nostra opera non vale nulla per essere salvati, che l'essere religiosi non ha alcuna utilità per accedere alla vita eterna. Infine, nella nostra disperazione, Dio ci comunica che Gesù Cristo è morto per tutti, affinché chiunque pone fede in Lui come l'unica soluzione ai suoi peccati abbia la vita eterna. Questo messaggio, totalmente nuovo e sconvolgente per la nostra morale originaria, ci impone di riflettere e di fare una scelta. O noi continuiamo a pensarla come prima, oppure rivediamo di nuovo le nostre opinioni, mettiamo in discussione convinzioni radicate da anni e confermate da millenni dalla nostra religione, riconosciamo i nostri errori e cambiamo il nostro atteggiamento mentale. Di conseguenza, convinti di ciò che abbiamo sentito, scegliamo ciò che piace a Gesù Cristo. Isaia 56, 4. Rifiutiamo ciò che a Lui dispiace. Isaia 65, 12. Perché il ravvedimento, come dice il vocabolario, consiste nel riconoscere i propri errori morali o religiosi e correggersi. Se non si muta l'opinione che abbiamo di noi stessi, sulla vita e su Gesù Cristo, se non vi è un totale cambiamento di vita, non vi è ravvedimento, perché quando ci si ravvede si ha una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5,17. Se il ravvedimento fosse un'esperienza comune a tutti, la parola di Dio non ne parlerebbe con tanta insistenza. Proprio perché ravvedersi significa cambiare opinione, mutare convinzioni, modificare il nostro modo di vivere, eliminare tradizioni e luoghi comuni per cambiarli con altri, è evidente che ravvedersi sia l'atteggiamento più difficile da prendere e da mantenere. Noi tutti siamo il risultato di ciò che pensiamo, siamo il prodotto della società in cui viviamo e desideriamo ardentemente di essere accolti dal prossimo. Perciò accettare di essere diversi, di dover andare controcorrente, di piacere a Dio anziché agli uomini, è un'impresa che può compiere solo Dio. Eppure, nonostante la prospettiva che abbia il credente di soffrire per Cristo, vi è una ragione maggiore che lo obbliga di essere diverso dagli altri, il tribunale di Cristo. Proprio per questo, secondo la Scrittura, Dio passando sopra i tempi dell'ignoranza, comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Perché ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù Cristo che egli ha stabilito. E ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti, Atti 17:31. Il primo messaggio che lanciò l'apostolo Pietro fu: ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore, Atti 3:19. Il ravvedimento è indispensabile per raggiungere una vera conversione. E quando si parla di ravvedimento e di conversione, l'esempio più classico è espresso nella parabola del figlio prodigo. Dopo essersi allontanato privo di saggezza dalla casa paterna, dopo aver sciupato insensatamente tutte le sostanze in modo scorretto, rientrò in se stesso, rivide il suo folle cammino, si vide qual era. Povero e stolto, mutò atteggiamento, si pentì, decise di andare a chiedere perdono, vi andò, si umiliò. E da quel giorno stette per sempre con suo padre. Gesù Cristo è venuto non per i giusti, ma per i peccatori affinché si ravvedano. Se i peccatori, cioè io e tu e tutti gli altri, non ci siamo ravveduti, il sacrificio di Cristo resta vano e non ci giova. Il ravvedimento, cioè il riconoscersi peccatori perduti e accettare quale soluzione per i nostri peccati il sacrificio di Cristo ci fa partecipi dell'opera di Dio, approviamo il suo piano di salvezza. Facciamo causa comune con Dio. Febbraio 2005. Ellero.